giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno e buona domenica da Giorgio Bearz. In questa edizione del giornale radio parleremo del grave incidente di ieri accaduto a Ene Monzo durante la tappa del Giro della Regione Under 23, che ha visto coinvolto in uno scontro con un automobilista una delle motociclette della giuria di gara, con due feriti di cui uno grave. Della seconda e ultima giornata di esibizioni dell'Air Show a Rivolto, con il gran finale delle frecce tricolori nel tardo pomeriggio, ma anche del nuovo anno scolastico al Via in Settimana, della Sagra degli Osei a Sacile e della manifestazione Pordenone Pedala. Infine lo sport, con le sconfitte di Apu Udine e Gesteco Cividale nei tornei estivi di preparazione alla stagione ufficiale. Le 12:16, cominciamo dunque con la cronaca. Ricoverato in gravi condizioni uno dei due feriti nell'incidente di ieri a Ene Monzo durante la tappa del giro ciclistico della regione Under 23, poi annullata, che ha coinvolto una delle motociclette della giuria di gara, scontratasi con un'autovettura condotta da un cittadino venezuelano, vettura estranea alla corsa e che non ha rispettato la chiusura al traffico dell'arteria. Oggi si sta disputando la quarta e ultima frazione tra Cervignano e San Daniele. Riparte da Cervignano per il tratto finale il Giro del Friuli Venezia Giulia dopo l'annullamento della terza tappa, quella da Ampezzo a Ravascletto, a causa di un incidente stradale grave. Un'automobile, a causa di un mancato rispetto dello stop, è entrata sul percorso della gara e ha investito la motogiuria, mandando a terra i due passeggeri, il motociclista e il giurato. Immediati soccorsi, anche con l'aiuto di un elicottero e due uomini, sono stati inviati negli ospedali di Tolmezzo e di Udine. In codice rosso il motociclista Giuliano Botteon, 68 anni, che ha riportato diverse fratture e danni alla milza, mentre il giurato, in codice giallo, avrebbe riportato fratture alla clavicola. Nessuno è in pericolo di vita e, stando alle informazioni dell'organizzazione, anche le condizioni del motociclista sarebbero stabili. Un incidente che, secondo Giorgio Caldo, coordinatore della scorta tecnica, è clamoroso perché è avvenuto in pieno rettilineo. Il giro comunque ripartirà con una sicurezza stradale rafforzata alle 12:30 per l'ultima tappa con traguardo a San Daniele. Nel percorso 100 km di piano e poi il passaggio per la Mont di Muris, passaggio impegnativo dove si deciderà il vincitore. Cervignano del Friuli, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. L'inizio ufficiale dell'anno scolastico in Friuli Venezia Giulia è stato fissato per giovedì prossimo, 11 settembre, ma sfruttando l'autonomia di ogni istituto ci sono scuole in regione che hanno iniziato già le lezioni il 1 settembre, mentre altri istituti hanno deciso di prolungare l'estate ancora per qualche giorno. Gli alunni e gli studenti in regione sono circa 130.000, secondo i dati dell'ufficio scolastico regionale. Nelle scuole dell'infanzia gli iscritti sono 11.862, gli alunni del primo ciclo della scuola paritaria, le ex elementari, sono 38.376, nelle ex medie inferiori studieranno 27.340 ragazze e ragazzi, mentre gli studenti e le studentesse delle superiori sono poco più di 49.000. 3.850 bambini e ragazzi frequentano le scuole con lingua di insegnamento slovena. Daniela Beltrame, che guida l'ufficio scolastico regionale, ci ha comunicato che prima dell'inizio dell'anno scolastico sono stati nominati in ruolo 815 insegnanti. Entro la fine dell'anno dovrebbero essere 858 in totale. Per garantire la continuità didattica sono stati confermati anche 425 insegnanti supplenti nei posti di sostegno. Inoltre, per quello che riguarda del personale non insegnante, è stata autorizzata l'assunzione di 22 funzionari ex DSGA, 41 tecnici amministrativi, 16 assistenti tecnici, 151 collaboratori scolastici ed un infermiere e un operatore di aziende agricole. A causa del costante diminuire del numero di allievi, quest'anno saranno formate 60 classi in meno. Secondo il professor Paolo Sorzio, docente di pedagogia dell'Università di Trieste, l'inverno demografico costringe il mondo della scuola a trovare un equilibrio tra il risparmio economico ed un aumento della qualità dell'insegnamento. La diminuzione del numero delle classi determina una minore spesa. La diminuzione del numero dei bambini potrebbe però anche creare l'opportunità per aumentare l'interazione positiva tra gli insegnanti e gli alunni. Un miglior insegnamento, soprattutto della lingua italiana, secondo il professor Sorzio, inoltre è uno strumento strategico per favorire l'integrazione degli alunni stranieri. In questo contesto, Daniela Beltrame ricorda che in regione ci sono già 200 pluriclassi per salvaguardare le scuole più periferiche con meno di 10 alunni iscritti nelle singole scuole e che il Ministero ha assicurato che il calo demografico non determinerà automaticamente un calo del numero degli insegnanti. Walter Scherck, TGR del Friuli Venezia Giulia. Secondo e ultimo giorno oggi di grande festa a Rivolto con lo spettacolo aereo delle Frecce Tricolori, un evento speciale organizzato per festeggiare i 65 anni della presenza della pattuglia acrobatica nazionale nella base friulana. Dopo il ricco programma di ieri, anche oggi gli spettatori presenti, 100.000 le presenze stimate per l'intero weekend, potranno assistere a numerose evoluzioni aeree. Questa mattina si sono già esibite le pattuglie spagnole, polacche e dei paesi baltici, mentre dopo la pausa pranzo nel pomeriggio sarà la volta di quelle turche e francesi. Ma il clou è atteso alle 18 con il sorvolo sopra la base di Rivolto della pattuglia tricolore della PAM, in arrivo direttamente da Monza, dove oggi si corre il Gran Premio di Formula 1, che eseguirà una serie di numeri acrobatici. La manifestazione viene seguita in diretta TV durante la giornata, prima su Rai 2 e poi su Rai 1 per il gran finale di questo pomeriggio. E siamo giunti alle condizioni del meteo: il cielo è poco nuvoloso su pianure costa, variabile in montagna, le temperature registrate alle 11. A Trieste 23 gradi e 5 decimi, mare poco mosso, con temperatura di 25 gradi. A Pordenone Gorizia 23 gradi e 5 decimi, a Udine 23 gradi. A Tolmezzo 19 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 17 gradi e mezzo, a Piancavallo, Sappada e Tarvisio 16 gradi. Sul Monte Zoncolan 15 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 12 gradi. Passando alla costa, a Grado 24 gradi e mezzo, a Lignano 23 gradi e 5 decimi e la temperatura del mare di 24 gradi in entrambe le località. Queste le previsioni dell'ARPA. Nel pomeriggio avremo tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per la probabile presenza di velature ad alta quota. Sulla costa venti a regime di brezza. Domani cielo sereno o poco nuvoloso per velature con venti a regime di brezza. Nel pomeriggio sera sarà possibile una maggiore nuvolosità. Oggi nel centro storico di Sacile si celebra la tradizionale festa della Sagra degli Osei, la manifestazione ornitologica più antica d'Europa, che si svolge ogni primo weekend di settembre. Nata come mercato avicolo e di attrezzi per l'Uccellanda, oggi la Sagra degli Osei è un evento dove si intrecciano storia, cultura, ambiente e turismo. Sentiamo allora l'intervista alla presidente della Pro Sacile, Lorena Bin. Come sta andando questa edizione? In maniera sorprendente, dall'alba di questa mattina a Sacile è pienissima di visitatori, di appassionati e anche solo di curiosi, quindi sono ancora le prime ore del giorno, ma questa fiera insomma ci sta sorprendendo nonostante i tanti eventi concomitanti con noi oggi. E oggi si premiano anche i campioni europei di chiocolo. Esatto, la squadra italiana targata Associazione Pro Sacile a maggio è andata a Marsiglia, è riuscita a strappare i titoli, quindi il primo premio in tutte le categorie, e oggi li festeggiamo perché sono i più forti chiocolatori d'Europa. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. A Pordenone si è corsa invece la 52esima edizione di Pordenone Pedala, manifestazione cicloturistica non competitiva su un percorso di 44 km con partenza da Piazza Risorgimento. A Pordenone sta per concludersi la 52esima edizione della Pordenone Pedala. Un lungo serpentone di migliaia di ciclisti, quasi 5.000, ha preso il via questa mattina alle 9 da Piazza Risorgimento e sta attraversando il territorio lungo un anello di circa 44 chilometri. Il percorso tocca diversi comuni della provincia e si concluderà al Parco Galvani, dove i partecipanti saranno accolti dalla tradizionale pastasciutta finale. L'edizione 2025 assume un valore particolare, segna il decennale della scomparsa del fondatore Demetrio Moras, ricordato con una tappa simbolica a Roveredo in Piano, il suo paese natale. Non è una competizione, ma una grande festa popolare sulle due ruote che coinvolge famiglie, bambini, sportivi e appassionati di ogni età. Una giornata di sport e socialità che trasforma ancora una volta la città e il suo territorio in un palcoscenico dedicato alla bicicletta, all'insegna della convivialità e della partecipazione collettiva. Pordenone, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Lo sport basket, la presentazione ufficiale della prima squadra della Pallacanestro Trieste che si prepara al campionato di Serie A e alla 12ª edizione della Basketball Champions League. Si terrà al Castello di San Giusto nel cortile delle Milizie alle 20. Passando al parquet, ieri APU Udine sconfitta da Trapani 76-64 nella finale del Memorial Paietta disputata al Palacarnera, e sempre ieri sconfitta anche per la Gesteco Cividale a Lignano contro Forlì per 70-81 nella finale per il terzo posto del Memorial Bortoluzzi. Nei tornei di fine estate la seconda partita in due giorni è sempre quella che dà meno indicazioni. L'APU perde la finale del Memorial Paietta dedicato alla mamma del presidente Pedone contro Trapani per 64-76 in un match dei ritmi lenti e con poche giocate di spessore, con entrambe le compagini ampiamente rimaneggiate: Udine senza Ichi e Libegovic, Trapani senza l'altro Libegovic e gli americani Allen e Hart. Vince la squadra che ha più talento e meno toppe. Nella prima sfida una compagine di Serie A di questo prestagione, i ragazzi di Vertemati hanno subito Arcidiacono e Boa Courtois, ma soprattutto non sono stati veloci a sufficienza nelle chiusure difensive, permettendo ai siciliani, primi avversari di Trieste in campionato, di sparare dall'arco con percentuali vicine al 70% nel primo tempo. Nella ripresa meglio i bianconeri, un po' di Bruton, giocatore dalla taglia fisica importante per il ruolo, e soprattutto l'ottimo Dawkins, poi in panchina per un leggero infortunio, permettono di riavvicinarsi, anche se per Trapani fuori dello Sato non perdonano, ultimo quarto con spazio per i ragazzi. A Lignano invece cade anche nella finale terzo quarto posto, le memorie al Bortoluzzi, la Gesteco di Pillastrini, ancora senza l'influenzato Freeman e anche senza Capitan Rota, Cividale sconfitta da una Forlì trascinata tra gli altri dal giovane play Pinza. Gialloblu in difficoltà soprattutto in difesa, con minuti anche per Amici, giocatore aggregato che non fa parte dei piani tecnici ducali. Nel finale di primo tempo break di 18-4 per i romagnoli di Martino, nella ripresa però Redivo e compagni vanno addirittura avanti con canestro di Cesana, l'attacco però si blocca, Allen e Radori colpiscono e finisce 80-71 per Forlì. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Calcio nella terza giornata di andata del girone A di Serie C. La Triestina affronterà in casa lo Stadio Rocco l'Ospitaletto, Franciacorta. Calcio d'inizio alle 15. Tuffi da grandi altezze a Mostar sul celebre Ponte Vecchio si è disputata la penultima tappa delle Cliff Diving World Series. Al via gli atleti della Triestina nuoto Andrea Barnaba ed Elisa Cosetti. Nella gara maschile Andrea Barnaba ha ottenuto gli unici voti 10 dell'8, ma a causa di un grave errore nel tuffo conclusivo è finito al nono posto. In campo femminile invece Elisa Cosetti ha terminato all'11 posto, sporcando troppo il terzo tuffo per poi reagire con carattere nella quarta esecuzione. Inaugurazione ufficiale per il festival Il Faro della Musica, con l'esibizione di uno dei più grandi violinisti del nostro tempo, violinista Maxim Vengerov, vincitore del Grammy a Trieste, al Generali Convention Center in Porto Vecchio alle 20:30, assieme alla pianista Polina Osetinskaya. Due brevi concerti presenteranno il progetto di completamento dell'organo della Basilica di San Silvestro a Trieste alle 16, gli archi dell'orchestra Blanc e la voce narrante di Stefano Montanari si esibiranno a Polcenigo, al Santuario della Santissima Trinità, alle 16:30. L'autore e conduttore televisivo Patrizio Roversi si esibirà nello spettacolo Oltre il Petrolio, a conclusione della rassegna itinerante Palchi nei Parchi, a Pagnacco, Parco Rizzani, alle 20:45. Ultima giornata per il festival multidisciplinare Invisibile Cities, che si concluderà con lo spettacolo Save the Last Dance for Me, del coreografo Leone d'Oro, alla carriera Alessandro Sciarroni, a Gradisca di Sonzo, a Palazzo Toriani, in sala Consigliari, alle 18. La rassegna culturale Una luce sempre accesa prosegue con lo spettacolo Old Port della compagnia dei Pupkin Cabaret a Trieste, al magazzino 26 di Porto Vecchio, alle 20:30. Il comune di Trieste informa che da oggi a venerdì, in orario notturno, si svolgeranno i lavori di ripasso della segnaletica orizzontale in Borgo Giuseppino, via Marconi, via Giulia, via Colonia, via Valerio, viale al Cacciatore, asse piazzale De Gasperi e piazza Dalmazia. E si chiude così questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Federico Comer e Giuliano Pecorari. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il GR alle 18:30. Grazie a tutti e buon proseguimento di domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.